e denari. In questa settimana d'estate continua la nostra avventura radiofonica, ogni giorno emozioni, relazioni sotto la nostra lente di ingrandimento, con grandi incontri, grandi temi da approfondire insieme a tutti voi e insieme al, posso chiamarlo collaboratore, Alberto Pellai, medico psicoterapeuta e scrittore. Ciao Alberto. Ciao Nico, buongiorno a tutti. Mio compagno d'ombrellone in quest'estate d'agosto. Alberto, oggi facciamo le vacanze insieme quest'anno, Nico. Mi piace molto. Anche oggi tanti temi nel nostro menù e tanti incontri. Proprio dall'incontro sotto l'ombrellone cominciamo oggi, perché in linea con noi c'è un nostro grande amico, ma prima di tutto un grande artista e un grande uomo che quest'anno ne ha fatti di tutti i colori. Non vi svelo con nome e cognome la sua identità, ma ve la faccio intuire con l'ascolto di uno dei brani contenuti nel suo ultimo progetto musicale. Il titolo del primo brano è particolarmente adatto a chi tra voi sta vivendo vacanze di riposo e di ozio, nel senso latino del termine, l'ozium latino. Sentiamo. Nel silenzio c'è girasole nato sulle nuvole, ci sono il fiume, l'alta marea, la luce, l'idea, ci sei, c'è quello che vorrei, c'è quello che già ho, ci sono le canzoni per sempre, giorni assolati, sbattuti dal vento di questo vivere. Ha riconosciuto la voce e lo stile di Red Canzian, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Red, benvenuto. Buongiorno Nico, come stai? Io sto bene, accomodati accanto a me sotto l'ombrellone. Ti abbiamo invitato per una serie di ragioni che un tuo caro amico che è seduto accanto a me, Alberto Pellai, ti racconterà e che diventeranno un po' la scaletta del nostro incontro. Allora, intanto buongiorno Red e ciao Alberto. Oggi ciao. Sei proprio il compagno di ombrellone ideale, perché in realtà hai, durante gli ultimi 12 mesi, realizzato un progetto musicale che ha il titolo, direi quasi anche estivo, l'istinto e le stelle ci invita a guardare in alto, ci invita a guardare il cielo e la luce di una stagione molto particolare. Hai vissuto una sfida personale davvero molto intensa, di cui parleremo insieme, e in realtà poi sei in questo momento in giro per l'Italia, sei tornato sul palco con tantissima energia, una nuova libertà, una completezza, una pienezza che insegna a tutti. Insomma, come dire Red, c'è davvero tutto dentro la tua estate 2015. Partiamo però dal tuo progetto discografico, il titolo è davvero, come si dice, evocativo, L'istinto e le stelle, e anche la copertina è incredibile. Perché hai scelto questo titolo e soprattutto proviamo a descrivere, provaci tu a descrivere l'immagine ai nostri ascoltatori. Ma sono due cose molto legate, nel senso che il titolo è L'istinto e le stelle, che altro non è che la natura e il sogno. Queste due forze che convivono dentro di me costantemente e collaborano, non è che si scontrano, trovano sempre una maniera di aiutarsi l'una con l'altra, e quindi questo senso della natura, dell'istintività, della parte animale di me che va a braccetto col sogno, con l'idea, col pensiero, con la voglia di costruire prima nella testa e poi praticamente quelli che sono i miei progetti o appunto i miei sogni. Tutto questo è stato rappresentato da Sergio Papaletra, che è un grandissimo comunicatore dell'immagine, con questa mia foto che sembra che la natura si arrampichi sul mio volto, per cui ci sono questi ramage, queste foglie che quasi mi avvolgono e danno questa sensazione di un tutt'uno, non di una forzatura, non di una violenza che viene fatta all'immagine, ma di un'unione, anzi di una sorta di collaborazione tra uomo e natura. È vero, io sono pienamente d'accordo con te Red. Tra l'altro nel CD ci sono alcuni temi che tornano molto forti. Alberto, che potremmo definire un entomologo della musica, ce ne parla e te ne parla, caro Red, così poi te la vedi con lui. Ma direi che per chi ascolta il... Tanto siete lontani, no? Però direi che questo è un CD che per chi ha letto la tua autobiografia scritta nel 2012 12, è un po' un racconto in musica attraverso proprio il tuo strumento per eccellenza, cioè i brani, le canzoni, di quello che hai raccontato invece anche nelle pagine, nella tua storia di vita. C'è, secondo me, potentissimo il tema della famiglia, ci sono delle canzoni davvero molto emozionanti che hai dedicato a tua figlia, per esempio, a tuo padre, alla donna della tua vita. C'è poi proprio la capacità di guardare, di alzare lo sguardo, di guardarsi intorno e di riflettere sulla vita, sull'importanza delle cose che non cambiano nonostante il tempo passa. E poi personalmente a me è piaciuta anche questa modo, forse poco dei Pooh, più tuo, di costruire un progetto che usa strumenti, cioè non c'è un suono sofisticatissimo, è come se fosse quasi artigianale, cesellato, un po' vintage, ecco. Non so se ti riconosci in questa lettura. Mi riconosco in tutto quello che hai detto. Per me la famiglia, i figli e i riferimenti importanti, da mio padre a, ovviamente, alla donna della mia vita, ai miei figli e a tutto ciò che fa parte del mio mondo, quello che rimane a casa, ma è protetto, rimane a casa in quanto non voglio mescolarlo troppo col mio lavoro. E allora così ho voluto dedicare attenzione a questi argomenti. E quando si parla d'amore si parla di un amore vero, potente, intenso, di quelli che ti travolgono, di quelli che quell'amore finale e infinito, no? Che quando arriva, arriva. E poi i miei figli che hanno collaborato nel disco, perché Phil ha fatto, oltre alle batterie, ha fatto quasi tutti gli arrangiamenti. Poi mia figlia Chiara, che ha cantato e duettato con me. Beh, poi una serie però, di amici incredibili. Sì, bello, perché sì. Capisci che senza imposizioni hai passato un testimone ai tuoi figli, no? E poi una serie e anche di un po' Rede ci dimostra che anche i geni dicono la loro. Devo proprio dire di sì, e ringrazio Dio di averli portati su quella che è stata la mia strada, il mio sogno da quando ero bambino, senza forzature, però io vedo che quando loro sono sul palco sono come me, si sentono a casa, quella è la loro casa. Red, tu hai voluto a fianco le persone che ami nella realizzazione di questo progetto e oltre ai tuoi figli hai avuto proprio vicini i tuoi amici. Ho avuto amici importanti e veri, quelli che li puoi anche sentire una volta all'anno, ma il discorso riprende dall'ultima parola, bravo, dell'ultima telefonata della sera prima, no? Ed è veramente bellissimo. Infatti, quando ho chiamato Giuliano San Giorgi, che io conosco da sempre, ho visto veramente quasi nascere con Enea Maro e ho sempre creduto in loro, in lui, perché sono una forza. Devo dire che quando l'ho chiamato per scrivere il testo di Per un attimo, lui non ha esitato un attimo a farlo. E la stessa cosa è venuta con Ivano Fossati, che è stato fantastico, perché lui venne a casa mia l'ultima volta nel 78 e si dimenticò un giubbino di jeans. E allora io l'ho chiamato e ho detto: senti, ti chiamo per due motivi, uno per restituirti il giubbino di jeans e l'altro perché vorrei che tu mi facessi un testo su una mia canzone. E lui mi ha detto: guarda, il giubbino di jeans non mi va sicuramente più bene, perché pesavo molto meno nel 78. Per quanto riguarda il testo, mandami la musica che lo faccio molto volentieri. E così abbiamo ritrovato il nostro rapporto. Poi è venuto a vedermi quando ho fatto il concerto a Porto Venere, si è divertito tantissimo insieme a Mercedes, la sua compagna. Ti dico, quei rapporti che durano una vita e non vanno per forza alimentati con mille telefonate, mille cose. Esistono perché alla base c'è stato un incontro importante e vero. Red, un CD che tu hai corredato anche da un lungo docufilm che hai voluto abbinare al CD. Un altro modo di raccontarti, perché hai sentito l'esigenza di raccontarti ai tuoi fan anche con un documentario lungo e bello, lasciamelo dire. Ma ho voluto fare questo film, perché in realtà si tratta di un film di due ore, perché volevo raccontare che cosa c'è dietro il mio mestiere, perché molti pensano che uno va in sala d'incisione, la canzone dura 4 minuti, in 4 minuti la canta e finisce tutto lì. Non è così. Dietro una canzone c'è passione, amore, ragionamenti, capire come renderla più bella, perché una canzone la puoi anche rovinare con un arrangiamento sbagliato o un'interpretazione sbagliata. Allora ho fatto vedere tutto questo, ma è molto divertente, perché non è una cosa didattica, è un docufilm in cui si vede tutta la gente che è arrivata un dietro le quinte, Red, possiamo dire così. Poi all'interno di questa meravigliosa Villa Veneta, dove abbiamo montato tutti gli strumenti e abbiamo suonato dal vivo, tra l'altro nel docufilm ci sono 4-5 brani che nell'album non ci sono, per cui inediti e pensati solo per il DVD, per cui è una cosa che mi è piaciuta e poi è piaciuta tanto alla gente, è stata accolta molto bene. Senti, e con Alberto invece abbiamo scelto una canzone che ci è piaciuta in modo particolare, vero Alberto? Sì, ad Alberto ha toccato delle corde, come dice lui, perché è un papà. Beh, e quindi però credo anche che musicalmente abbia toccato, sì, assolutamente le corde degli ascoltatori, che poi tra l'altro gli ascoltatori di Red sono proprio fan non solo del personaggio, del musicista, ma proprio della persona e di tutta la sua vita, quindi avere una porta d'accesso a una sua zona personale, intima, relazionale, come la relazione di Red con sua figlia Chiara attraverso una canzone che si intitola Un passo dalle stelle, è stato di sicuro un regalo che Red ha fatto a molte persone. Chiara notte insonne sveglia a scrivere, la luce ancora accesa e tutto intorno è vivere, pensa tanto ai conti poi ritornano, e quello che dai è uguale a ciò che prenderai. Chiara che si chiede di un domani che non sa, morde e fugge il tempo con la sensibilità, non concede soste ai suoi pensieri, alle sue idee, e sono i contrasti a spingerle i tasti. Allora, si chiama Chiara, è figlia tua, perché e poi da te ha ereditato sicuramente anche la passione della musica, fa la cantante, ma Chiara è anche tante altre cose. Che cosa ha provato Chiara quando ha sentito il modo in cui tu l'hai raccontata e anche cantata? Ma innanzitutto, ma ha detto che l'ha ascoltata 5 volte e per 5 volte ha pianto, e quando gli ho mandato il provino ho fatto una notte in sala d'incisione e poi mi ha chiamato, insomma era felicissima perché dice gli hai fotografato l'anima, insomma, con questa canzone. E io e lei abbiamo un rapporto bellissimo, con i miei figli ho un rapporto bellissimo, perché appunto, come ti dicevo, oltre a suonare, a cantare con me, condividiamo comunque il senso della famiglia, che è la cosa più importante. L'altro giorno abbiamo fatto i 15 anni di matrimonio io e Bea non è la mamma di Chiara, è la mamma di Filippo, la mia seconda moglie, però Chiara era presente come anche figlia di Bea, hai capito? Cioè questa condivisione della famiglia, noi quattro a pranzo a festeggiare un momento importante per tutti noi, e queste sono le cose più belle, i risultati più belli che uno ottiene dalla vita. Senti Red, è sempre stato così o anche tu, come molti genitori, hai attraversato dei periodi di difficoltà con i tuoi figli? Qua accanto c'è Alberto che ci ha accompagnato in tante puntate per così fare un po' da guida ai genitori che si trovano in delle relazioni molto difficili con le persone che amiamo di più. Sembra che non si trovi la chiave, no? Per entrare in quel mondo che improvvisamente diventa altro ed estraneo. Questo è terribile quando succede. Io devo dire che probabilmente siamo stati fortunati, probabilmente abbiamo anche fatto e lavorato in modo che non avvenissero delle rotture, no, tra quello che era il nostro mondo e le nostre scelte e la vita dei nostri figli. Sono cresciuti in tournée, nel senso che le estati le passavano nel backstage dei concerti dei Pooh negli stadi, spesso dentro i camper con l'aria condizionata a fare i compiti per l'estate, a fare le 3 di notte addormentandosi nei dopo concerti, a cena, nei ristoranti. Quindi sono cresciuti forti, fortificati e con poche menate. Hanno capito che la vita è fatta di valigie, di viaggi e comunque insomma di impegno, di lavoro. Non ti regala niente nessuno. tutto, e poi loro hanno capito che veramente che cosa c'è dietro a questo mestiere, perché mi hanno visto stanco, distrutto, oltre che felice ed sì, entusiasta, no? Perché tutti ti invidiano, però dietro c'è tanta fatica e anche la sapiente, no, strategia per tenere tutto in equilibrio. Alberto, abbiamo sì, bisogno del tuo aiuto, con anche una considerazione per i tanti genitori all'ascolto che proprio in estate, quando la vicinanza con i figli, magari adolescenti, si fa particolarmente stretta, tante ore a passare con loro, vengono fuori, no? Un po' tutti i nodi vengono al pettine e ci si preoccupa parecchio. Ma intanto prenderei il consiglio di Red, che scrive una canzone per la figlia, e essendo l'estate proprio un tempo in cui da una parte siamo molto più rilassati e dall'altra abbiamo una relazione speciale con i nostri figli, invito in particolare gli ascoltatori, gli uomini, papà, a immaginare che cosa vorrebbero scrivere ai loro figli che stanno crescendo, e probabilmente nessuno di noi ha le competenze di Red e può scrivere una canzone, ma tutti possiamo scrivere una lettera, quindi usare magari quest'estate per lasciare ai nostri figli un documento, parole scritte che raccontano un po' che cosa loro sono stati per noi e cosa noi siamo diventati anche grazie bello a loro. Ti piace? Molto bello. Quindi molto oltre, bello, oltre alla canzone scriverai anche una lettera a Filippo e a Chiara? Ma io quotidianamente mando dei messaggi d'amore a loro, perché quotidianamente ho bisogno di farlo. Bravo, anche a me farli... succede la stessa cosa. Ho bisogno di farmi capire che cosa loro rappresentano per me. Senti Red, il tuo CD possiamo dire che è proprio un inno alla tua famiglia. Famiglia, tra l'altro, che ti è stata vicinissima in una zona della tua vita che ti ha colpito quest'anno all'improvviso, dove te la sei davvero vista brutta. Cosa ti è successo? Ma soprattutto, come hai fatto, Red, in tempi così brevi, a ritornare Red di prima, solare, energico, energetico? Ma guarda, il 25 febbraio scorso ero a Roma per lavoro, e alle 7 del mattino ho avuto, alzandomi, la sensazione che un tir col motore incendiato mi avesse investito. Ho sentito addirittura il botto dentro di me, e un dolore che non si può raccontare, un dolore talmente forte, e io ho detto, ok, sto morendo, perché un è la mia ora, non si può sopportare. E sono riuscito a fare il numero di telefono del mio manager, che per fortuna è anche medico, ed era nella stanza a fianco, gli ho detto vieni di qua perché sto morendo, e sono andato, ce l'ho fatto ad arrivare alla porta, ad aprirgli la porta. Lui è entrato, ha capito subito che era qualcosa di molto grave, è salito nella hall un secondo a chiedere se c'era un ospedale vicino, e prendendosi tutte le sue responsabilità non ha chiamato l'ambulanza, mi ha buttato in un taxi senza riuscire nemmeno a togliermi la t-shirt da quanto era grondante di sudore, e mi ha portato in questo pronto soccorso che era a 300 metri dall'ospedale, pensa che fortuna, e lì hanno pensato che fosse un infarto, sì, ma forse proprio per la vicinanza che il tuo manager, certo, essendo medico, sì, si è azzardato, certo, perché in ogni caso, in altri, certo, casi avrebbe sicuramente chiamato un'ambulanza con... però significava perdere tempo e poi essere trasportati nel posto dove c'era un posto libero, certo. Invece noi siamo andati al pronto soccorso, lì hanno pensato che fosse un infarto, quindi mi hanno subito scoagulato per capire, poi una serie di esami alle 4 del pomeriggio invece hanno capito che io avevo avuto questa dissecazione aortica, che è una cosa molto brutta dalla quale si salvano veramente 2 o 3 persone su 100, quindi è una cosa terribile, e lì mi hanno detto devi essere operato. Io, non capendo bene, ho detto bene, in qualche maniera arrivo a casa e mi faccio operare, ma ecco, no, non hai capito, devi essere operato adesso, ora, qui ora. Per cui mi hanno trasferito nell'altro ospedale, sempre della Fondazione Garofalo, che è una fondazione straordinaria di medici, una famiglia di medici che ha questo European Hospital sempre lì vicino, sempre loro, dove, pensa, altro colpo di fortuna, opera Ruggero De Paulis, che è il professore che ha inventato 15 anni fa la maniera di cambiarti l'aorta senza toccare la tua valvola, perché per cui io ho la mia valvola aortica. Sei ancora tutto originale, Red, eh? Ancora tutto buono, tutto buono. 12 centimetri di tubo, e quindi una serie di coincidenze pazzesche. Pensa che la settimana dopo lui sarebbe partito per la Bielorussia, per cui è andato tutto come doveva andare, stranamente. Per cui io li chiamo anche segnali che ti aiutano a capire l'importanza della vita. proprio perché ti mettono davanti alla possibilità anche di perderla, no? E niente, con 7 ore e mezza di operazione, circolazione extracorporea perché hanno fermato per un'ora il cuore, il mio manager che è medico ha assistito all'operazione, quindi è stato 7 ore e mezza dentro. Non ti ha mai lasciato? E ogni tanto usciva a dar notizie a mia moglie e ai miei figli, che nel frattempo sono arrivati da tutte le parti d'Italia dove erano sparsi col loro lavoro, e mi hanno raggiunto e alle 3 di notte sono uscito, e poi quando mi sono svegliato erano tutti, ecco qua, tutti che, intorno a me. Se possiamo raccontarcela come dicevano i nostri nonni, vuol dire che è andato tutto bene, e sicuramente certo, da esperienze di questo tipo insomma si impara, qualche cosa cambia, anche solamente per riconoscere, Alberto, che insomma la vita va apprezzata e vissuta, e sembra una banalità. Sì, io credo ma che nel qui e ora, perché io credo che poi il racconto che ci farete è decisamente quello di una storia non a lieto, a lietissimo fine, e in realtà prova proprio un po' a pensarci, no? Sono le coincidenze, le combinazioni, gli incastri, in fin dei conti è un po' il nostro destino che è già scritto e che ci permette di essere le persone che siamo, perché con tutti i soldi del mondo tu non puoi allungare di un minuto, di un'ora la tua vita se arriva il tuo momento. E in generale credo che poi questo per Red abbia significato, uscendo da questa avventura, è stato bello vedere alcuni video che lui ha postato sul suo profilo Facebook, avere la consapevolezza che c'è proprio sempre, ogni giorno, un secondo tempo, una seconda possibilità, la capacità di riprendere in mano se stessi e la propria esistenza, e ogni giorno di renderlo un nuovo giorno, il nuovo giorno di me stesso. Allora Red, per dare un senso a tutto questo, con Alberto abbiamo deciso di ascoltare un altro estratto dall'Istinto alle Stelle. Il titolo è particolarmente evocativo: L'infinita. Mi hai bussato nel petto, quasi fosse una porta. Poi mi hai detto fa freddo, e così te l'ho aperta. Ti ho scaldato di luce come a un fiore fa il sole, poi ho perso la voce nel gridarti il mio amore. Infinita, Red, come infinita sembra essere la tua energia. Io so che tu devi scappare, ti stai preparando, sta tirando su Veri la sua borsa da spiaggia, sta lasciando il nostro ombrellone. Red, è vero che tu stanno preparando qualcosa di grandissimo? Hai qualche anteprima? Io sto scappando perché mi stanno aspettando, che sì, stiamo già lavorando al cinquantennale. Volevo spendere ancora 2 parole soltanto per questa infinita che è stata, oltre alla mia famiglia che non mi ha lasciato per tutto il periodo in cui sono stato a Roma in terapia intensiva, ma poi mia moglie che è stata con me giorno e notte per 50 giorni, condividendo questa vacanza forzata sul lago di Garda, dove siamo stati molto bene, ma dove ero appunto in riabilitazione. E queste sono le cose che ti fanno guarire in fretta, tant'è che io dopo 50 giorni dall'intervento ho voluto fare il mio primo concerto. Mi hanno preso per matto i medici, ma non importa, erano tutti in prima fila, e a metà concerto, quando hanno capito che io stavo volando, si sono rilassati, hanno cominciato a cantare e a divertirsi anche loro. Detto questo, i Pooh stanno preparando delle cose incredibili per il cinquantennale, che comincerà l'anno prossimo, che sarà l'anno prossimo, ma già a settembre, verso la fine di settembre, faremo una conferenza stampa in cui racconteremo esattamente come sarà pensato questo nostro cinquantennale, per cui insomma grandi sorprese, ma soprattutto tutto ciò che merita una storia bella, importante e forse irripetibile come la nostra. Infinita, Red. Grazie a Red Canzian per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie a te e grazie ad Alberto, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao, anche a tutta la tua famiglia. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati e ritorniamo subito dopo insieme. A tra poco. Cuore e denari. Ecco, ci siamo tornati insieme, qui accanto a me Alberto Pellai, pronto per una seconda parte di Cuore e Denari Estate. Tra l'altro, Alberto, stavo riflettendo proprio sul fatto che l'estate è tempo di vacanza, ma anche tempo di piccoli e grandi progetti di cambiamento. E noi di un progetto di cambiamento vogliamo parlare nella seconda parte della trasmissione. vogliamo parlare di, io devo dire che per me è come entrare un po' in terapia oggi. Ma per me è uguale, perché non per niente chiameremo un ospite che ci aiuterà. Il tema è ordine e disordine, e pensiamo che durante l'estate succederà a tanti di voi: improvvisamente non è più quella giornata tutta di corsa, potete stare a casa vostra per ore e ore, vi guardate in giro e scoprite che intorno a voi c'è il finimondo, perché ti si posa l'occhio sì. Ecco, sulla libreria che è tutta disordinata, poi vedi le cose che hai accumulato, apri l'armadio. Insomma, bisogna avere un pochino di energia e un po' di forza e di determinazione e mettersi a fare un po' di ordine, che tra l'altro è liberatorio, Alberto, vero? Beh, è molto terapeutico se tu in qualche modo trovi un ordine fuori di te, non in modo ossessivo, ma proprio in un modo equilibrato, molto probabilmente quello diventa specchio dell'ordine che c'è dentro di te, esattamente come tante volte il caos che c'è fuori di noi rispecchia in modo molto molto potente il caos che spesso non riusciamo a governare dentro di noi. Senza esagerare però. Sì, mai fare delle assolutizzazioni o delle generalizzazioni, però guardati intorno, cioè troppo ordine e troppo disordine. Però sai che si dice, quello che per te è disordine è il mio ordine, perché io nel mio disordine sono ordinata. Non hai mai sentito? Io è una cosa che dico spesso. E allora, mi guarda, lamentano. Parliamone, sì. Abbiamo un intero blocco della trasmissione per farlo. Coraggio, troviamogli un posto. In quel mobile? No, lì vanno i bicchieri di cristallo. Possibile che ancora non riesci a orientarti qui dentro? Il classico ripostiglio? Oh mio Dio! Ma perché l'hai aperto? Sei disordinata? Mia moglie vive nel caos! No, senti, non è come credi. Va bene, lo confesso, anch'io non rimetto sempre tutto in ordine. E allora diamo il benvenuto a Sabrina Toscani, autrice per Mondadori di un libro dal titolo inequivocabile Facciamo ordine in casa, nel lavoro e nella vita. Buongiorno Sabrina. Buongiorno, buongiorno a voi. Qua c'è parecchio da lavorare, da che cosa iniziamo? Dalla casa? No, avete già dato un sacco di spunti, a dire la verità. Il mio facciamo ordine, sì, è abbastanza, come dicevate, non è solo in casa, ma anche nel lavoro, nella vita in generale, cioè è quasi più un ordine mentale che fisico, però passa sicuramente anche attraverso l'ordine spaziale, insomma, fisico. Sabrina, lei è una professional organizer. Ho pronunciato bene, Alberto, che è il mio maestro, esatto, di inglese, e lei è proprio la persona che cercavamo. In pratica lei che cosa fa e come si è inventata questo lavoro? Allora, diciamo che la traduzione italiana potrebbe essere professionista dell'organizzazione. Affianco le persone per imparare a organizzarsi meglio e quindi gestire meglio le proprie risorse di spazio, tempo, energie fisiche e mentali. E non l'ho inventato io, l'ho diciamo importato tra virgolette dal mondo anglosassone, negli Stati Uniti infatti esiste già da più di da circa 30 anni e si è divulgato in tutto il mondo, quindi in molti paesi è già presente, e quando così ho avuto l'idea ho notato che in Italia non c'era, eppure mi sembrava ci fossero dei margini di miglioramento rispetto a questo. E quindi ho pensato di cominciare a trattarlo io, e poi ho anche fondato un'associazione professionale, quindi diciamo che adesso c'è tutta una rete di professional organizer in tutta Italia che sta crescendo. Ma qual è la richiesta tipo che vi arriva? Sono più le persone che si rivolgono a voi per mettere ordine in casa, nel lavoro o nella vita? O iniziano in un ambito per poi mettere ordine negli altri due? Ma diciamo che è molto vario, non c'è una regola. Quello che si nota è che di solito c'è un livello di esasperazione che è arrivato un po' ai limiti, e quindi per qualsiasi ragione, sia che nascano magari organizzati ma vivano un periodo particolare in cui magari non hanno avuto tempo, appunto, l'energia per poterlo fare, sia che magari non sono particolarmente organizzati, le persone che si rivolgono a noi cercano qualche risposta per vivere o per riprendersi un po' in mano la vita, insomma, e quindi magari passano anche per gli spazi, quindi ci chiedono proprio specifici aree magari di sistemare con loro, di organizzare o di imparare a organizzare appunto specifiche aree in casa, ma non solo, anche in ufficio e poi insomma nella vita, diciamo che è molto vario come richiesta. Passetto dopo passetto si mette ordine. Alberto, Tu che aiuto chiederesti? Da dove inizieresti tu? Ma intanto io la farei venire sulla mia scrivania, che da 2 anni piange e ha bisogno di un intervento di riorganizzazione, e forse chiederei proprio un consiglio su migliorare ulteriormente l'ottimizzazione dell'organizzazione del tempo. Per me, io effettivamente vivo molto intensamente, a volte mi accorgo che ho tantissime cose da fare e butto via un sacco di tempo. Quindi esattamente come risparmiare bene spazi nella tua casa in modo da poterla vivere al meglio, come si fa a risparmiare del tempo, a non buttarlo via? Faccio un esempio: l'iPad è uno di quegli strumenti che in una giornata tipo effettivamente genera tanto disordine, perché dici guardo una notizia sul sito del mio quotidiano preferito e improvvisamente ti trovi a vederne magari 10, 15, 20, a buttare via 25 minuti. Si può fare qualcosa? Sì, anche perché dipende purtroppo solo da noi, perché effettivamente gli stimoli esterni sono, come vediamo, in continuo aumento, e tutti i nuovi dispositivi elettronici anzi sono più in tendenza a farci fare tutto e a farci avere tutto in ogni momento. Quindi la risposta è veramente per il momento solo a carico nostro, cioè è proprio personale. Ma lei Sabrina, ma ad Alberto, che ho capito che ha un po' questo problema, quindi con l'iPad va a leggere una notizia e poi una tira l'altra come le ciliegie, perde un sacco di tempo, a un suo cliente che viene con questo problema, lei quale strategia suggerisce? Cerco di passare, prima di tutto bisogna analizzare insieme meglio cosa vuol dire, come vorrebbe allocare il tempo e come invece lo alloca, quindi proprio analizzando un pochino più nello specifico come passano i minuti e quanti quindi trascorrono, quanta perdita c'è navigando online, e a quel punto fissare dei paletti un pochino più chiari su quanti magari minuti possono essere trascorsi online, quindi mettersi proprio magari un cronometro. Sì. E questo spesso lo consiglio perché magari non ci rendiamo conto che intanto passano le ore, poi sono passate 3 ore e d'improvviso ci rendiamo conto di aver perso del tempo. Quindi già un cronometro che suona appunto nel tempo che abbiamo allocato per quel lavoro lì ci aiuta a lavorare solo su quello, non distrarci su altro, avere un obiettivo più chiaro, e quando suona il cronometro a quel punto possiamo decidere come allocare la prossima mezz'ora magari. Quindi questo è un discorso che facciamo abbastanza individuale, perché dipende dal tipo di lavoro naturalmente. E quindi questo possiamo farlo ad esempio anche noi da soli a casa. Ma intanto, Sabrina, noi continuiamo con una richiesta di aiuto, un'altra, che è arrivata una mail di una nostra ascoltatrice, e anche la nostra ascoltatrice ha bisogno del suo aiuto. Sentiamo. Ho 40 anni. Nella vita ho avuto poche regole e tantissime esperienze ed attività. Vivo in un piccolo appartamento che ormai sembra un campo di battaglia. Viaggio dopo viaggio, esperienza dopo esperienza, questo luogo di vita si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia. Vorrei approfittare delle ferie estive per tornare a vivere in una casa degna di questo nome. Ma non so fare ordine, non so buttare via nulla. Sembra che non sappia rinunciare al mio disordine, che tra l'altro non è solo della casa, ma anche della mia vita. Visto che in amore faccio pasticci e che sono single, non per vocazione, ma perché non ce la faccio a stare in una relazione stabile molto a lungo. Insomma, qui c'è tutto da rifare, ma aiutatemi almeno a fare un po' di ordine a partire da casa mia. Eccoci Sabrina, insomma una situazione abbastanza complicata. Di fronte a una lettera di questo tipo, un'esperta dell'ordine, una professional organizer, per dirla, no, come si deve dire, da che cosa comincerebbe? Comincerebbe proprio dalla casa, come chiede Clara? Ma allora, intanto inizierei dalle emozioni, cioè dal vedere che non ne parla direttamente la signora nella sua email, però trapelano un sacco di emozioni, quindi sarebbe carino proprio sentire che tipo di emozioni tutto ciò suscita quando lei è a casa sua. E bene o male, cioè, noi abbiamo percepito che si può trattare di emozioni abbastanza spiacevoli, no? Sì. Quindi sofferenza, sconforto, anche irritazione, esasperazione. Intervenendo sull'ordine, anche solo iniziando dall'ordine fisico, fisico, si può ambire ad avere emozioni più piacevoli a casa, e quindi questo è il primo passo di consapevolezza che di solito è consigliabile fare, perché certo, se uno lo mette sul livello delle emozioni è certo che è così, insomma, non può essere altrimenti. E poi non passare subito a fare ordine, anzi deve essere l'ultima cosa, ma prima deve esserci tutto un altro come dire, iter di consapevolezza, che deve passare soprattutto dal semplificare, e quindi cercare di mettere in luce che cosa c'è di troppo e come poter alleggerirsi prima ancora di mettere ordine, perché altrimenti rischiamo di mettere ordine comunque nel troppo e l'ordine non regge. Infatti Clara dice: non so fare ordine, non so buttare via nulla. E spesso noi, quando vediamo che la nostra casa è affollata, iniziamo a prendere le cose e le mettiamo tutte da parte, ma in questo modo poi ci ritroviamo nello stesso girone, perché il buttare via non significa fare ordine, come ci ha spiegato bene la nostra Sabrina Toscani. Di questo parleremo e continueremo a parlare anche dopo le informazioni sul traffico. Abbiamo un'altra richiesta, questa volta di un ascoltatore più giovane. Intanto Sabrina, quindi la prima regola è ascoltare le emozioni, possiamo anche annotarla, sì. Ecco, piuttosto sì, che dire sì, tutto disordinato, punto e basta, cerchiamo di capire quali emozioni ci produce in noi quel luogo in cui per una serie di ragioni non ci riconosciamo più. Questo è il primo compito? Ho capito? Esatto, anche esattamente, anche perché pare che questa signora Clara abbia un sacco di esperienze e attività passate di cui fa fatica a staccarsi, però è diventata ormai una zavorra, lo ammette lei stessa, no? Quindi è più quasi una cosa che la mortifica. E anche un po' la sindrome dello scoiattolo, non so se esiste, ma io così la descrivo, quell'abitudine che abbiamo in molti di fare un viaggio, portare a casa un oggettino, vedere una cosa in un mercatino, portarlo a casa, portare tutto dentro la tana. Esatto. Possiamo chiamarla così, il sindrome dello scoiattolo. Sì, sì, diciamo che dà senso di sicurezza, ma come abbiamo visto invece fa venire a galla emozioni spiacevoli, quindi di sicuro c'è una contrapposizione tra una cosa che ci sembra piacevole nel momento in cui l'acquisiamo e poi invece quando è a casa diventa una zavorra in più. Questo allora, per fare le cose per ordine, Sabrina, noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi per bene ritorniamo subito dopo insieme. Alberto sta prendendo gli appunti, poi lo chiamo a mettere in ordine a casa mia, io vengo in ordine a fare ordine a casa tua, non so se funziona. Strade e poi di nuovo insieme, a tra poco. Cuore e denari. Insomma, io ho tutte le mie cose negli scatoloni e tu fatichi a entrare dalla porta. Lo so, l'hai visto? Ogni volta, ogni singola volta. Dobbiamo spostare questa roba. Svuotiamo lo stanzino e mettiamola di là. Sta attento! Non urlare, non serve, non sono sordo. Sta bene a sentire. Ora porti tutto di là. Ho steso degli asciugamani puliti sul pavimento e ci posi le mie scarpe e le mie scatole con delicatezza. Adesso non ci resta che buttare un po' di vestiti. Allora vuoi proprio morire. Ma la maggior parte non l'hai mai indossata. È così. Non li ho ancora indossati, è vero, ma un giorno lo farò. Facciamo ordine in casa, nel lavoro e nella vita. Questa è la nostra mission, ma anche il titolo del libro di Sabrina Toscani, edito da Mondadori. Sabrina, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, noi continueremo a fare ordine e seguendo le tue indicazioni. Siamo partite dalla lettera di Clara, un po' con una casa un po' strapiena, direi, di sì, direi oggetti. Clara magari è proprio anche un po' la testimonianza del fatto che poi molti di noi hanno una vita un po' bulimica, dove tendiamo all'accumulo di tutto, all'accumulo delle cose, all'accumulo delle esperienze. E quando sei giovane probabilmente corri molto molto veloce, raccogli tantissime cose, fai tantissime cose. A me personalmente la lettera di Clara fa pensare che siamo davvero un po' una zona di snodo della sua esistenza, cioè questo bisogno di mettere la casa in ordine, forse implicitamente, e anche un bisogno sottile di mettere la vita in ordine, cioè di correre un po' meno. Quindi quando noi avvertiamo questa esigenza, tu mi stai dicendo tra le righe che dobbiamo assecondarla, anche se ci costa fatica, perché vuol dire che siamo pronti a fare un passo. Ma userei un po' proprio i concetti anche che ci propone Sabrina Toscani, cioè io credo che la domanda domanda cruciale sia cosa voglio ottenere nella mia vita e che cosa sono davvero disposto a buttare, cioè che cosa posso cambiare, che cosa posso perdere, qual è l'essenza di me stesso su cui decido di giocare e investire il secondo tempo della mia vita. Quindi Alberto, tu mi stai dicendo che l'ordine e il disordine che abbiamo in casa è un po' anche uno specchio dell'ordine e disordine con cui funzioniamo nella vita di tutti i giorni, o forse magari vogliamo mettere ordine perché se no non riusciamo più ad arrivare al divano. Ma sì, oppure più semplicemente possiamo dire che nel momento in cui sentiamo di aver bisogno di un ambiente che ha un suo ordine e di non vivere più nel caos, quel caos che vediamo fuori, molto probabilmente quello che vediamo fuori è uno specchio anche di un desiderio che abbiamo dentro. Facciamo ordine nella nostra vita. Sabrina Toscani, che cosa ne pensa di questa lettura di Alberto Pellai? Fantastica, esattamente quello che voglio comunicare nel libro, quindi sono contenta che sia passato il messaggio e sia stato sintetizzato così bene. Nel libro riprendo una frase, tra l'altro di anonimo, quindi non saprei a chi attribuirla: le cose belle nella vita non sono cose. Quindi in effetti abbiamo la tendenza ad accumulare e poi questo accumulo per forza di cose ci toglie degli spazi ad altre cose che potrebbero arrivare, comprese opportunità. E il rischio è di perdersi delle opportunità solo perché siamo presi da oggetti e impegni, appunto non proprio scelti a quel punto ma un po' imposti, perché poi non abbiamo più deciso rispetto a quelle cose, prendono una gran quantità di, soprattutto della nostra attenzione, e non ci permettono di dedicare la nostra attenzione e quindi anche i nostri pensieri a altre cose, a cose nuove, a nuove opportunità appunto. Allora, domandone per i miei due esperti sotto l'ombrellone. L'ordine della casa, Alberto, stai attento, può aiutare a raggiungere un miglior ordine della mente o prima si parte dalla mente e poi si può applicare alla casa? Ma per quel che mi riguarda credo che sia un po' difficile separare le due cose. Perché tu ordine in casa non lo fai. No, però io di nuovo mi muoverei in una logica più psicologica, poi la parte proprio del professional organizer la lasciamo a Sabrina. Io direi che però la nostra evoluzione e la definizione della nostra identità man mano che cresciamo dovrebbe proprio avvenire per sottrazione, cioè secondo me più noi riusciamo a capire chi siamo nella vita e meno abbiamo bisogno di metterci addosso apparati e di circondarci di cose essenziali, come tu mi stai facendo vedere, loro non lo possono vedere gli ascoltatori, ma tu sei essenziale. Ed in effetti se tu guardi tra i 60 e gli 80 anni ci sono perché delle persone, no, non sto parlando, no, ormai sto l'hai detto, parlando. Scusa, guarda Sabrina, no, scusa, ma il collegamento lascia. È finito, finisce qua. Alberto, va a casa. No, io sto pensando alle persone che ci insegnano tanto nella vita, sono davvero essenziali, mentre quando tu vedi una persona magari di 60 o di 70 anni che è piena zeppa di oggetti monili, cioè è proprio come è sistemata cipolla con addosso di tutto, hai un po' la percezione che le cose arrivino prima della persona. Sabrina, tu sei d'accordo? Poi, sì, però... sono d'accordo sul da dove iniziare. Tendo a cercare di capire la persona da dove vuole iniziare. Direi che iniziare dalla parte fisica, anche se non è facile neanche quello, se vogliamo, è senz'altro più facile, se non altro perché i risultati arrivano abbastanza velocemente. Anche perché ti dà molta soddisfazione. Certo. E poi e questo ti scarica. È motiva, naturalmente. Certo. Sabrina, io non vorrei però che i genitori o le persone all'ascolto dicessero: ho sentito alla radio che bisogna mettere ordine, e decidessero così di imporre il loro ordine o di invitare, di costringere il loro padre, il figlio, il collega a mettere ordine, perché è una cosa che non ci può venire imposta, deve nascere da noi. Esatto, sì assolutamente, se no non funziona. Deve proprio essere un percorso che ognuno sceglie perché vede che gli fa bene, perché lo fa star bene, quindi è una cosa in cui ci stai bene, trovi benessere, anche ritrovare le cose, ecco questo volevo aggiungere, che magari fare ordine di per sé in effetti non a tutti può piacere allo stesso modo, però poi ritrovare le cose, sapere, trovarle abbastanza velocemente quando le cerchi, sapere che ce le hai e quindi non hai bisogno di ricomprarle, dà un certo senso di sicurezza, di benessere anche quello. Quindi... diciamo quasi di onnipotenza quando uno trova la cosa che cerca senza dover smontare tutta la casa. Che soddisfazione. Certo, da soddisfazione, fa guadagnare un sacco di tempo e anche stress, perché se vogliamo poi di solito dobbiamo cercare nel momento in cui ne abbiamo più bisogno e non abbiamo tempo, e quindi aumenta lo stress e vivere così diventa un po' snervante sul lungo periodo, quindi a questo dovrebbe servire. Ecco. Sabrina, io vorrei però che tu ci dessi qualche regola pratica per iniziare così a mettere un po' di ordine. Inizia tu, se dove preferisci, dalla casa, inizia dalla consapevolezza, ma vorrei proprio tradurre in pratica con dei suggerimenti che tutti noi possiamo applicare, in modo che noi possiamo così farci una specie di specchietto. Da che cosa si inizia, quali sono le trappole, che cosa fare? Allora, io nel mio libro diciamo spiego bene il metodo SRC, che è il metodo semplifica e riprendi il controllo, e quindi ci sono dei vari passi da poter seguire. Senza volerlo spiegare tutto, di sicuro le cose fondamentali riguardano la consapevolezza sia del come dicevo prima, delle emozioni che uno diciamo, prova sente, di fronte, no? al disordine in un determinato ambito, esatto, ma anche del fatto che le richieste sono tantissime esterne e quindi non è impossibile riuscire a rispondere a tutte le richieste di attenzione che ci arrivano, è proprio impossibile, quindi questa è la prima cosa che dobbiamo capire. Selezionare, come suggeriva prima Alberto, serve proprio questo, non si può prendere tutto, scegliamo quello che è importante per noi e lasciamo stare tutto il resto, perché altrimenti non ci stiamo dietro o rischiamo appunto di stare dietro a cose che poi non sono effettivamente rilevanti per noi. E poi nel semplificare, e quindi un ulteriore passo del metodo, per esempio per quello che riguarda semplicemente gli spazi da cui siamo partiti, cioè lo spazio della casa, è dare una seconda vita ad esempio agli oggetti. Quindi è vero che abbiamo tanti oggetti, è vero che è difficile buttare così senza logica, però se invece diamo una seconda vita agli oggetti donandoli, regalandoli, trovando altre collocazioni che non siano per forza casa nostra e nemmeno il nostro garage magari, può essere utile, perché vediamo un'altra persona felice di aver ricevuto quel dono e è utile anche per noi, perché liberiamo lo spazio per qualcosa. Senti, quindi Sabrina, questo... abbiamo ancora poco tempo, io vorrei che tu ci dicessi che cosa consigli ai genitori di adolescenti che hanno sempre le camere in disordine. Io questo è proprio un tema, è la lamentela per eccellenza delle mamme, si chiude la porta e si lascia al 12° giorno, l'adolescente si organizza, questa è la mia versione, ma non lo so, non sono Sabrina Toscani. Sabrina. Sì, no, penso anch'io che il punto sia soprattutto, prima di tutto, non intervenire. L'istinto dei genitori, soprattutto delle mamme, è quello di intervenire e fare al posto dei figli. Credo che non ci sia cosa peggiore, innanzitutto perché facciamo noi al posto loro, e mi ci metto anch'io perché sono anch'io una mamma, e non è educativo. E poi perché comunque risolviamo il problema senza, non alla base, cioè è solo, in quel caso è la nostra emozione che è negativa, non sappiamo di che emozione possa avere il ragazzo, che sicuramente a quell'età lì ha un sacco di emozioni diverse. Quindi innanzitutto la cosa più positiva sarebbe coinvolgerli attivamente e fare eventualmente delle cose assieme. E poi può essere anche divertente, non è per forza sempre noioso fare ordine, organizzare, ma anzi scegliendo la chiave giusta può essere una cosa carina. Quindi per esempio coinvolgerli nelle scelte organizzative della casa, quindi non so, c'è bisogno di una nuova nuovo mobile, andiamo coi ragazzi, decidiamolo insieme, facciamolo scegliere a loro, tanto più se nella loro camera. Però insomma, più li coinvolgiamo più loro saranno motivati degli incarichi l'ordine. Precisi, ad esempio arriva la spesa, la metti a posto tu, oppure tu sei incaricato a mettere a posto il frigorifero. E comunque le camere degli adolescenti, Sabrina, questo è il messaggio: quando sono troppo disordinate, mamme, chiudete la porta e lasciateli lì, prima o poi si organizzeranno anche loro. Grazie. No, e poi comunque fissate delle conseguenze, ecco, dei premi e conseguenze coerenti su questo, perché un po' di regole ci vogliono, ecco, l'importante è che siano seguite le regole, ecco, da tutti, genitori e non. Esatto. Grazie a Sabrina Toscani, ricordo il titolo del suo libro, Facciamo ordine in casa, nel lavoro e nella vita. Grazie. A voi, grazie per l'ospitalità. Con Alberto Pellai torno domani, sempre che venga di nuovo a trovarmi sotto l'ombrellone, con nuovi amici, nuove storie, nuove relazioni da raccontare. Intanto, buonissima giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.